vabbè, fuffia! Cagane, attento cagamella! Mi sta venendo il prodotto! Il prodotto sta venendo! Vabbè, cra! Mi finto di cenare! Se mi accendo la televisione, me la guardo un po' qua, se non mi gara mai a Giobrimma. Io so con quello baltaccio che hai fatto casa, con un meno giù. E arrivi anche qua, vedi bene che queste antenne. Io non mi posso sbagliare dopo l'esperienza che ho e che ho avuto. Questa frequenza, l'antenna vola e corta. Se tu la metti lunga non serve a niente. Ui, ma già va bene quella lì, cazzatevi bene sì. Avevi bene sì, ho sentito Antonino, ha detto che fra un po' entra, che mangiava. Ehi, cioè siamo qua. Flippe! Cazzo, non vedo nulla in televisione. Cioè. E allora, attento, oh, Bibo Ba. E te bada. Ciucucciù, ciucucciù. Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Sto guardando al canale 5 questo Tushike Vales. Io invece sto guardando la cucina. Tu sì che pollo cucina. Le gambe del pollo. Non ci fa niente, zampe di gallina. No, le gambe del pollo sto facendo. Sto cucinando adesso. Poi allo spirito ho fatto a un'amica che mi fece San Donato, era tutta dondolando stava, cazzo. Non si voleva a vista, cazzo. L'ho salutata, ha detto ciao. Ma così è. Dondoliamo, dondoliamo. E allora, quando l'avevo conosciuta io era tranquilla, c'era la casa, era tranquilla. Si aveva la sua birra, era ben vestita sempre. Se ne va sempre in giro, c'aveva i soldi. Ma se la vedi è tutta cuffia a Bari, è mezzo cotta pure la cazzo, lì dai lo spini delle conce cazzo, buh, ho detto bella fine. Ah, yes, c'è anche Manuele, boh, Manuele. Ehi, anche là. Non lo senti Antonello? Ah, non lo sento. Tu non ti senti Manuele, Antonello, col portatilino. Se fa dove fumo col portatilino, perché è un'antenna grande, a me non lo sento. Manuele qui non arriva col portatile. No, io già lo sento, con il catto, con l'antenna in gomma, arriva qua. Ma manco botto arriva. No, qua già lo sento, con l'antenna nuova che ho messo, lo sento, la grande. Manuele, non ti sente Antonello? Ma ne immagino, ma cazzo mi dovrebbe sentire. Ma lui non c'ha l'antenna, c'ho io, lui c'è la direttiva, quindi magari è. Non ti prende a te, capito? Ma se ho qui. E cosa cazzo gira? Non ha motore, cosa gira? Cazzo, quello cannau. La direttiva è per funzionare bene, devi avere il motore. Io ce l'avevo, poi l'ho tolto. Ho tolto. Fasciato sei che ci minoriti, non servono a niente, basta una raffica del vento che te lo spacca. Ma vedendo dove sei tu sì che vale, scherzo spogliarella ne hai fatto. Tutti con lo magaglio in mano, so. Ma dal canale su. Canale 5. Cazzo tutti nudi con la mano in mezzo all'anchi, boh. Ma salito. Ah sì, sì, io non ho bisogno di spray, no? Oh, yeah. Vedo uno va via la mano, balliamo la palla e figatina, ci mano per la faccia a tapparsi le balle. Figurati cosa va di Mangagliù. Ah no. Per Sabrina Ferilli ha detto, ma non si può vedere tutto, la massa te ne va, via va. Cazzo una bocca, cazzo. Ok, abbiate poco l'osso buco. Sì, anche dei Filippi, no. Anche c'ho Capron di Romalito, pacca le daga. Anche non so me ne manca in pari. Forse chi è dell'Esvica, già dromani. Andarissimo. Ma vai che sono. Due risate ti fai, secondo che esci. Ma un litro e mezzo d'eva che sto già di via, c'è che affoga, va. Sì, sì, E va a tenere poco il cazzo di cazzate. Bene. Due minuti e 30 secondi. Aspettavamo, vi dietro 10 già. Tu si è pisciato so prima. Non si assomiglia a Mr. Bingy. Questo mi abbanno. Vabbè, attento Kawasaki. Secondo me non ventra, si trova prima. Ma ha mandato la buonanotte a me. No, se l'ha mandato un messaggio, mi disse mette a me cosa buonanotte. Vediamo. Cazzo, ma mi ha salito un coglione. Oh, il ciuc-ciuc. Tony. Ehi. Che dato dici? Sono coccato. Con il cazzo sì. Cosa? Mica c'è Claudio ci sì. Io ci sono io, Beato chi ti sente. Ciao Claudio, ehi. Sono molto molto indaffarato in questi giorni, ma lui già lo sa. Ah bene, poi non ti sei indaffarato. Ti stai facendo qualcosa. Noi invece siamo qua, buttati, da una parte all'altra. Beh, proprio qualcosa non la sto facendo. Volevo tirare un po' di scappi l'ultimo che persona, la stavo tentando, fino a che l'ho trovato stasera. Che stavi? Tentando qualche persona di darle un paio di scappellotti, eppure ho trovato stasera, meno male. Oh, ma in buono? Ma che conosciamo? No, negativo. Sta nel palazzo dove termina 50 e sta rompendo le palle. E l'ho minacciato. Dice, mi sei minacciato, sì, anche io ti ritaglio la ora. Patrasiri, ti sto avvisando per l'ultima volta, non ti avviso più, la persona da vengo di picchio. Ma sempre quello là? Sempre quello che rompe coglione della 50, e io, e anche la sua compagna. Vabbè, dai, non ne parliamo. E vabbè, Tony, però, fai le cose fatte bene, non partire in quarta. Claudio, non ho niente da perdere. Arrivato a questo punto, che rompo chi tocca, i miei pariti, amici miei, io non vedo nessuno in faccia, non me ne fotte nulla. E vabbè, in questo caso la tua ex moglie, quindi, va sempre tutelata in ogni caso. Anche mia figlia ha cercato, cazzo. E quindi, niente, io sono buono e caro, però, claro, quando me le fanno girare veramente, alla fine non guardo più nessuno in faccia. Vabbè, così deve essere, normale, rispetto per rispetto. Papà. Niente, oggi più avvicinando, pomeriggio mi sono messo le portone, aspettando, come te l'hai farato con Lugani. E allora ho detto, ma allora non la finiamo allora. C'è rimasto là e non si aspettava. Mi sono girato, ma con una somma da faccia. Cazzo era Vemmo, non si è muovito un attimo, caruda. No, non è vero, non ho fatto niente, io non ho fatto niente. Ma giubbiato vari patti, ma Piazzini. Ti sto già avvisando. Alla prossima volta, come mi stai minacciando? Sì, ti taglio la gola. Vai Piazzini. Non ti dico più niente. Alla prossima, sono cazzi tuoi. Cazzo via. Proprio così, tambala e tambala, quattro gomme a terra. Cazzo comunque, guarda, ti giuro, stasera mi ha trovato, Mia figlia come ha aperto la porta è scesa subito su perché mi ha visto la mano in tasca. E infatti c'aveva una bella gigetta. Claro, non ve la fotti nulla. Mi manovere già l'ha vista il mio giocattolino. Perché pensavo che era con l'altro amico suo, capito? In due. E invece era rasura. Non ho messo male in tasca, però non ho fatto niente, dai. Non sono avvisato. Va bene. Avanti, Emanuele, vado a prendermi una sigaretta. Ehi, importante che l'abbia compresa. Anche se non l'ha compresa, si fa a rimanere più forti. Ma penso che l'aveva compresa, però. Io penso che se l'avrà immaginato aveva qualcosa, Manuè. Pure farà da Edda. E così che tu, così mia figlia, dissi, magari le facevi tu fino a poco fammi. Mi è rimasta di media, munta. Non vi ripeto assai, Balucci, quindi. Yeah, Per carità. Ma piove o sta ancora tu? Negativo, domani non piove. E lui ha detto, mi hanno tagliato i cavi, ha detto, a me non mi interessa i cavi tu, io ti taglio un punto. Ma allora va la corrente? Adesso a quanto pare c'è una corrente, hanno pagato la bolletta. E ma che cazzo ve l'ha collegata? Cazzo, tu che buono ma cantone, insomma. Quando mai attaccano di venerdì sera, venerdì notte la corrente, perché finisce arriveranno in una via. Vuol dire che domani chiamo l'Enel, chiedo l'informazione, siccome erano già intervenuti sotto il mio, con una mia chiamata, perché avevano fatto un bypass sul contatore abusivamente, rubato la corrente, sono venuti e hanno staccato tutto. Come fanno venerdì notte a toccare la corrente? Domani mi informo. Ancora, siccome il bypass l'ha fatto sull'altro portatore e il suo no, adesso l'ha attaccato al suo, ma se si è pagato la corrente allora chi? Se non ha pagato lui ha fatto un altro bypass. Quello lì che stavo pensando anche io, cazzo di baricrano, cazzo di già sono veloci che attacca la corrente, di solito cazzo mi attaccate la corrente, passano i cazzo 24 ore o 2 lì. Però sono più di un mese senza corrente, ma non è. E lui ha detto, è Massimo, e no, che mi pensano, io in casa mia posso fare a chi voglio. Sì, in casa tua, è entrata sopra, non si mette a stracciare i cavi dell'interruttore, eccetera, eccetera. Perché io l'ho filmato, io ho la telecamera piccola qua. Io ho tutto quanto, che non si permetta più, a chi ha prenduto il burretto. Ma tu non c'è niente di contattori, cavi elettrici, dove siamo saliti noi in soffitta? Io roba mia non l'hanno, non ho niente. Ah? Non ho niente roba mia là in soffitta. No, ma sto dicendo, ma lì qualche quadro per collegarsi, non c'è nulla su. No, niente, zero, ma non è. C'è solo l'impianto che da giù porta su dal vivo. E che cazzo, è un cavo da mica sta collegato io, volendo, dove cazzo si è collegato questo? I cavi che io ho tagliato, mi hai visto? Ho visto che li hai tagliati, ma chi qua collega, magari avrà collegato attorno a quei cavi che è tagliato, sì, ma la corrente, se non c'è corrente, mi cazzo si collegheggia io. Insomma, non è, quei cavi arrivano fino a giù al contattore. Li ha ricollegato al suo contattore e c'è la corrente. Adesso se hanno fatto un bypass a quel contattore di lui, perché l'altro l'aveva fatto con la fianco di suo, no? Allora lui c'è la corrente, cosa ha fatto l'altro Massimo, che lui è un po' intelligente, no? Ha smontato il copertino con il contattore, ha fatto un bypass, come cazzo ha fatto non lo so comunque, e si è attaccato alla corrente, lì si è spostato i fili suoi all'altro contattore. Quando ho chiamato lei, ne sono venuti, l'hanno aperto, l'hanno visto cosa c'era, l'hanno tutto resettato, staccato tutto, e certo non ci riusciranno mai più, e hanno cambiato più il contattore. Cosa hanno fatto loro? L'altro contattore suo che è staccato, deve essere che Massimo ha provato a fare il bypass e c'è la corrente. Adesso però io, per essere più sicuro, verificare, chiamo di nuovo lei da domani. E domani, lunedì, domani non bisogna. Per queste cose sì. Allora, prova a chiamare e ti informo a vedere se gli hanno attaccato qualcosa. O se non si sono attaccati dall'abusivamente in che look. Il cavi sono attaccato al suo contattore, te lo sto dicendo, ma non è. Claudio, sei rientrato con questa sigaretta? Sì, ma sto anche fumando, sto ascoltando a voi. Ma perché è arrivato il fumo fin qua, per quello che ho capito che lì c'è qua. Sì, c'è una finestra aperta, domani non sta piovendo, beh. No, domani non piove più, domani ha messo soltanto un po' nuvoloso e basta. Oh, ma meno male. E quindi sono ogni sera io dalla 50, capito? Là, ecco perché non sto più entrando. Ho dormito anche dalla 50, e quindi avessi vadito a Torre Romacco, Ghiccio. Io gli ho detto a quello lì, io sono sempre qua, non tanto di più. Davanti al portone della porta della mia 50 invece a fa casino di se ne deve andare via, se deve vedere a casa. No, io nubi non ne ho fatto, non ne ho fatto, non ti permettere più, Anche il tatuaggio io ti brucio dentro, ti brucio. Ma che giocare? Ma sano e sei bello, Ma ha detto, io ho fatto 10 anni in galera, ne hai fatto poco. Ma sì, hai reagito, attento che io te la prendo in 30 anni, ne seguo un guzzo, ne seguo. Stai attento a quello che stai dicendo. Che non ti dicono, tu lo sai, tu hai detto no, allora dici guarda, non sai chi sono io e tu non sai chi sono io. Attento che ti stacco un gutto io. Sì, sì, ma quale scopo? Cioè, perché va a fare queste cose poi lì a casa di tua moglie? Cosa serve? Allora, lui è un tipo che è drogato, lui era 50, era sua compagna, erano 50. Anche loro sono denunciati, arrestati per droga, eccetera, eccetera. Prende il reddito di cittadinanza, lui risulta che è in casa la mamma, invece risulta lì, per prendere due reddito di cittadinanza, sia lì che lui. Con il reddito di cittadinanza si paga l'affitto, compra la droga e la rivende. Infatti c'è un casino, infatti devo dare ai carabinieri e fare la denuncia. E siccome c'è il cane che lo lascia un libro da sopra, il cane scende giù e piscia le portone. La 50 gliel'ha detto, non è vero, non è vero, non è vero, alla fine ha fatto la fotografia e gli ha mandato il padrone in casa. Il padrone in casa, a testa di cazzo più di loro, e non vuole avere parole, non vuole bisicciare, eccetera, eccetera. L'ho chiamato una volta io e ho detto, Alessandro, non ti permettere più, c'è che manda le mie, che devi dare l'affitto io. Cazzo, io per quell'ora non posso darlo, ho detto, a me non mi interessa, li butti fuori e finito il contratto. Fai la decisione del contratto, cosa c'entra? Se non si comportano bene lo puoi fare. Cosa ti sei attaccato, Doni? Sei morto. Ma no, io non lo sento più. Ma no, Doni, dimmi. Cosa ti è successo? Non lo stavo uscendo? No, sei sparito. Ma stavo uscendo? Sì che stavi uscendo, però poi sei sparito. Forse non ho schiacciato bene il microfono. Come ti stavo dicendo, la rescissione del contratto la può fare. In ogni momento. Se il padrone di casa decide di fargliela, gliela può fare. Lui ha detto che non la può fare la rescissione del contratto. Mi scade a dicembre, ma questo padre non la vuole fare. No, gliela può fare, a voi gliela può fare. Comunque, io so se domani o dopodomani vado a Carmiri e io faccio una bella denuncia. Poi, per il fatto che c'è troppo via vai, per spaccio. Vabbè, se c'è via vai, puoi fare tranquillamente la segnalazione alla grande. Sito male, Claudio, se si rumora presso. Cosa c'è? Sei uscito male, sentivo un rumore strano. Rumore strano? E che rumore c'ho? Prima, ma noi tu sentito l'hai? Beh. E che rumore c'ho? Sei sentito brrrr. Capito? No, non ero io, no, l'ho messo la portante. Ma lui è scomparso, Cos'è tu? Io l'ho lanciato, non lo riprendi. Beh. Ma se non sta gentilissimo, ma bene che c'è il microfono. Sento su mia valla, cazzo, mi ha cremato questo microfono di merda, forse uso l'altro, faccio prima, mi gira gira, il portatile. E uso l'altro, cazzo, a voi che impari, tu ho sentito l'altro. No, addirittura mi ha detto che stavo uscendo male io, io non c'ho niente qua. Dicezione, ho sentito... E vuol dire che qualcuno che stava mettendo la portante, io sto uscendo bene. Scappa, adesso sì, ma lui tu sento poco fa che il rumore strano quando ha parlato Claudio. E magari c'era qualcuno che voleva entrare, Infatti se c'è qualcuno... Avanti, chi vuole entrare? Io non c'ho niente qua. Mi sto guardando, tu sì che vales. Dove? Anche io sto guardando quello. Hai visto che bravo quel tipo con la biciclettina alto 8 metri? Sì, gliela giuvito, infatti è passato in finale diretto. Sì, 100% i voti per i 4 giudici sono andati vicini a lui. Bravo, comunque se ne cacci io, visto che mi sembrava che stava cadendo, se ne cacci qui ci fate male a vino me. Eh beh, con quell'altezza, poi stavo guardando quello spogliarello, pensavo si spogliassero le donne, e invece si sono spogliati i uomini. Sì, perché ha vinto Maria De Filippi con la carta più alta, la mazza gliene varia. Zibile era offrendi 20 euro per la carta per far spogliare le donne. Allora, le sbiccona, che? Senta, gli uomini, la mazza gliene scenda, che? Va bene. Comunque noi quel lavoro l'abbiamo fatto, Tony, con Luca. E Luca, due Luca, li ho portati qua, hanno fatto pulizia sul tetto, non c'è rimasto più niente. Ma non ti serviva anche la moletta, se non sbaglio. Ma ce l'abbiamo fatta, l'ha portata Luca, ma non l'abbiamo usata. Abbiamo fatto un lavoro, per carità, guarda. Non siamo riusciti a sfilare, abbiamo dovuto coricare tutto il sistema... Tutto il sistema con le antenne attaccate, ma lo sai che non tubisavano, mamma mia! Me lo posso immaginare! Tu pensa che sono io con l'antenna che ho pensato qua, le baracchino, con quei pari che gioco, le voci finale. Cazzo, mi ha sbilanciato, ero da solo, vabbè. Mi si è coricata, poi sono riuscito a attrezzarla con l'ervoso e grazie a Dio l'ho messa a posto. Però per dirti, già pensava Issa, cosa sarà roba doia, peggio. C'era il master, tubo zingato da 2,5 pollici. Innocente, scalinato, sopra in punta la 510, a metà c'era la 5 elementi, poi il motore, il rotore, tutto agganciato, cosciente di spinta, gabbia, guarda un peso allucinante, tubo di sostegno del piantone della gabbia da 2 pollici, lo stesso, schedula 40, ti sto dicendo un peso allucinante. Ma mi telefono un attimo, ti prendo subito. Ehi, e meno male, ragionando con la testa, perché sennò ci facevamo male. Abbiamo coricato tutto piano piano, siamo riusciti a smontare. Emanuele, Civeridù era un casino. Sentito mio Emanuele. Eccomi qua. Emanuele non risponde, va a essere drumito. Emanuele? Non risponde, l'ho chiamato. Emanuele? Ehi, io ci faccio. Ma non mi senti a me, Emanuele? Emanuele? A me senti? Per me sei più basso. Più basso? Non ho toccato nulla io. Ma non sono confortabile, sì. Ehi, allora che non rispondi? Ma che mi sdrumito da sì. Emanuele, perché non rispondi a Claudio? Se non lo sentivo. Cosa? Tu mi sentivi. E non me lo intendi? Beh. Ah, ma senti, ti stavo chiamando. Beh. Ho sentito Claudio. Beh. Vabbè, se non mi senti. Ma vai, l'antenna bella, anche non te l'attacchi. Beh. L'antenna sul tetto, puoi attaccare quella lì. Sul tetto? Ma ci sono cucato il gatto me ne fai, tanto qua rimane sempre la radio. Appunto, c'è il mobiletto. O ti si buccia l'illetto proprio vicino a cosa, il mobiletto che ti ho fatto io. Ma ci arriva capo, che lo tagliati. Scacchio, ti metti il letto vicino là. Ehi, anche cazzo faccio, l'ho detto pure uno di. Su questo mi sa 8 quintali, 8 tonnellate, no? Ma. Ma non si tagliano mai i capi, Emanuele, si lasciano sempre lunghi. Si lasciano lunghi. No, erano troppo lunghi, io ho qua. E poi facevo troppo, erano tutti arrotolati e quindi li ho lasciati a misura fino al mobile. Sarà un metro so che c'ha di gioco. Sì, vabbè, ma vedi, capita che ti devi spostare il portatile, ho spostato, si è coricato, c'è il cavo lungo, lascia stare a me che io c'ho tutto qua. Io quando oggi ando a cucarmi il tutto mi goffo. Ma per voi che ci avete così portatili va bene, capito? C'ho cavo in più dentro dove c'è la stazione vicino al letto. Ma no, non mi dovete da giocavo. Ma non lascio stare, non è che l'accorcio. Perché non sa mai, cazzo un ballino, vedo che c'è magari cosa, almeno ce l'ho il cavo. Beh, certo che sì, capita sempre. Sei a letto con influenza, ti allunghi il cavo e stai parlando. Emanuele. E te bada. Emanuele. Dove non mi intendi a me? È lui che non risponde, come fa a non sentire? Se ti sento io. Io sto usando quella mini grappia adesso. E con l'altro apparato. No, va bene, va bene. Arrivi benissimo qua. Emanuele. A quale antenna stai usando, Tony? Cazzo, ti sto chiamando, già 2 o 3 volte, non rispondi. Tony. Ma non mi senti? No, Claudio, sono sento. Poi sono bottati, ragazzi. Beh. Ma non mi intendi, no, boh. Claudio. Ehi, ti stiamo chiamando e non rispondi. Non posso stare tutta la notte così a bozzio, O ti attacchi l'antenna, ho tutto tutto e messo il goffo. Emanuele. Ma mi intendi, non metti i diti. Cazzo, ti stiamo chiamando e non rispondi. Non sente, dai. Ho c'è la batteria a scale, sto portati, ragazzi, boh. Vabbè, dai. Io vi saluto comunque, dai. No. che mi sto addormentando nella sedia, non ci avevo mai, non ci sono mai stato fino a quest'ora, dai. Mi guardo la TV, ragazzi. Un abbraccio, Tony. Ci aggiorniamo domani. Saluto a mio Emanuele, ma io non lo sento più. Ciao. Ok, d'accordo. Ciao, Cla. Stammi bene. Buon corretti e buon 144. A domani. Stammi bene. Ciao, ciao. Buonanotte. Ciao, ciao. Saluto a mio Emanuele. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Avanti, Emanuele. Emanuele. Emanuele. Faccio via. Acciamolo al telefono. Ciao, ciao. Buonanotte.